nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Due di Denari. Allora, caro Mauro, cosa ci puoi raccontare della nascitura legge di bilancio? Oh, cara Deborah, guarda, una buona giornata. Cosa vuoi mettere nel disegno di legge di bilancio? Cosa ti piacerebbe trovarci? Avrei bisogno di qualche provvedimento così che faccia splendere il sole per tutto l'anno, perché io odio il freddo. Abbiamo qualche possibilità? No, adesso, allora, no, non vogliamo scherzare troppo, ma la cosa è seria. Allora, dalla settimana scorsa è stato varato il disegno di legge di bilancio, ma ancora questo testo non è giunto alle Camere, quindi sorge un po' di tutto giorno per giorno. Oggi in particolare abbiamo letto, e poi ne parleremo anche nel corso di questa puntata, abbiamo letto dei PIR che si estendono al mercato immobiliare. Vabbè, intanto in borsa l'effetto si è sentito da subito, e allora vedremo. Poi naturalmente, non essendoci ancora un testo definito, non so se vuoi metterci qualcos'altro, ma anche il bonus dei fiori, mobili, cioccolatini, che è stato riconfermato per il 2018, quindi tu mi dici che ancora non si sa se sia vero o meno. Aspettiamo di vedere questo benedetto testo. Sai che io ho fatto tanti anni a norme e tributi, mi sono affezionato alle carte, mi piace quando le cose sono scritte. Lo so che tu giri sempre con il tuo fascicolo dei vari decreti fiscali che spuntano qua come fiori. Detto questo, di casa, a prescindere dalle norme che ancora non abbiamo, parleremo però per tutta la trasmissione di oggi, ma anche per quella di domani. Perché? Perché? Perché c'è della carta invece che arriva dal Sole 24 Ore. Eccolo lì. Domani. Mostralo anche ai nostri amici su Facebook. Mostriamolo così in stereo. In anteprima mondiale, oserei dire. Domani con il Sole 24 Ore, 80 pagine di un instant book dedicato a comprare, vendere, affittare casa. Che cosa è cambiato? Beh, nella casa cambia sempre qualcosa. Da ultimo vi ricorderete la legge concorrenza con la possibilità del conto deposito presso il notaio. Che affronteremo domani, peraltro, di nuovo. Ma, come dire, il mercato va sempre seguito, c'è sempre la necessità di capire, abbiamo fatto un buon investimento, è il momento di vendere, è il momento di comprare. Allora, di tutto questo... I prezzi come stanno andando in queste città in cui da qualche parte in realtà c'è stata una bella discesa, in altre invece c'è ancora una certa rigidità e quindi... bisogna osservare anche le quotazioni. E poi naturalmente gli investimenti con i fondi specializzati, quindi tante sono le declinazioni del mattone. Dovremmo fare 20 puntate per accontentare tutti, però vabbè, cominciamo due a farne una. Però, allora, innanzitutto, vuoi ricordare prima i numeri di telefono, cara Deborah? Guarda, li so a memoria. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, il tema di oggi è l'andamento del mercato. Avete messo gli occhi sulla casa dei vostri sogni, ma il prezzo non vi convince? Diteci perché. E naturalmente vi daremo magari anche qualche strumento per intraprendere una buona trattativa con l'altra parte, sia che siate venditori, sia che siate, siate possibili acquirenti di un nuovo immobile. Naturalmente, se volete mandarci un SMS o un WhatsApp, 349-238-6666, eventualmente, perché no, una email, due di denari, attenzione, scritto a lettera, due di denari, @radio24.it. Benissimo. Però, caro Mauro, prima di partire, ci sono due storie molto interessanti stamattina che riguardano le banche italiane quotate e non quotate in borsa, e quindi qualche novità ai nostri ascoltatori bisogna raccontarla. Io mi quoto in borsa. Allora, tu sai che quando facciamo Investire Informati gli ascoltatori interessati ce lo chiedono sempre. Quando ritorna in borsa Monte dei Paschi, sospesa dalle negoziazioni dallo scorso dicembre? Allora, con un provvedimento rilasciato proprio nelle ultime ore, nella notte, la Consob ha autorizzato il Monte dei Paschi a tornare agli scambi a Piazza Affari con le sue azioni e tutti gli altri titoli in precedenza quotati. L'appuntamento è per domani mattina, dopo 10 mesi di pausa forzata, disposta sempre da Consob il 22 dicembre scorso. Ma a che prezzo avverrà questa quotazione, questo ritorno? Ce lo dice Luca Davi del Sole 24 Ore, che salutiamo. Luca, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, dici tutto di questa operazione molto attesa da molti risparmiatori italiani. Sì, una lunghissima attesa, perché si aspettava appunto questo documento di registrazione della banca da 10 mesi, come dicevi tu, era il tempo di prolungamento, insomma, con cui si aspettava questo documento, e ora si uscirà sul mercato a un prezzo che dovrebbe essere questi 8,65 euro per azione, quindi bisogna dimenticare i 15 euro a cui usciva l'ultimo contratto sostanzialmente del Monte dei Paschi, un prezzo però teorico, perché dobbiamo ricordare anzitutto che lo Stato ha ricapitalizzato a sconto rispetto a questa cifra, quindi si scende a 6,49, ma anche a questa cifra comunque il Monte dei Paschi girerebbe, come si dice, su multipli più alti di quelli che sono quelli dei concorrenti, e questo significa che si scenderà ulteriormente. A quanto? Probabilmente in area 4-4,5 euro, che capitalizzerebbe diciamo la banca intorno ai 5 miliardi. Ora una giusta attenzione va dedicata anche al ritorno in borsa del Monte dei Paschi e quindi alle scelte degli investitori. Sicuramente il titolo Monte dei Paschi sarà soggetto a una fortissima volatilità, anzitutto perché comunque rientrerebbe tra i possibili titoli oggetto di acquisto da parte dei fondi di investimento long only, come si dice, cioè quelli che investono nel lungo periodo, e quindi potrebbe essere soggetto a rialzi, ma anche a forti vendite ovviamente legate a possibili allineamenti ed arbitraggi. Quindi insomma c'è da aspettare probabilmente un momento di forte volatilità. Infatti. Questo per quanto riguarda il prezzo. Non sarà quotata sul listino principale però, o sì Luca? Potrebbe rientrare, sì, vista la capitalizzazione potrebbe rientrare sul FTSE MIB, e questo proprio potrebbe essere motivo di acquisto da parte dei fondi di investimento più strutturati. Una cosa importante, nel documento di registrazione pubblicato oggi dalla Consob si mette in evidenza alcuni rischi che ancora sono connessi e sono insiti appunto nell'investimento, cioè il fatto che ancora ci sono da smaltire circa 27 miliardi di crediti in sofferenza, di crediti malati. Che la banca sta progressivamente però provando a vendere, collocando. La banca sta tentando di cederli, dovrebbe andare tutto in liscio, però comunque è un intervento straordinario, e questo, diciamo, in assenza di questo intervento comunque aleggia un rischio di risoluzione di bail-in. Altro punto messo in evidenza da Francoforte, dalla BCE, è che la banca comunque rimane debole, c'è un persistere di una bassa redditività e c'è un grande ammontare di cause, di contenziosi, ci sono rischi legali per oltre 4 miliardi. Insomma, tutti questi che sono anche elementi probabilmente per certi versi normali, sono comprensibili in situazioni che vengono comunque messi in evidenza da documenti appunto come quello appena pubblicato, insomma fanno devono far prendere con le molle l'investimento ovviamente nel Monte dei Paschi. Domattina lo seguiremo in diretta con grande interesse, ma le carinerie bancarie di stamattina non sono finite sì, qua. Sì, perché c'è stata una cosa, non si capisce poi quanto voluta o invece quanto sia stata casuale, perché per sbaglio, così almeno questa è la ricostruzione al momento, sono usciti sul sito di Unicredit i dati del terzo trimestre, però in anticipo, e quindi non dovevano essere diffusi, ma invece sono stati diffusi, sono stati anche inviati agli investitori. Esatto, e la banca ha dovuto quindi anticipare la diffusione della sua trimestrale. Ha dovuto convocare d'urgenza un consiglio di amministrazione, perché sono appunto trapelati in rete questi dati. Tra l'altro ricorderete che c'era stato un attacco hacker proprio a Unicredit nell'estate scorsa, luglio, e quindi insomma può darsi che ci sia un po' di sfortuna da parte di questa banca con appunto internet. Certo. Allora diciamo che in borsa questa vicenda Luca non si è fatta sentire, però insomma voi avete provato a ricostruire questa vicenda stamattina? Ma la vicenda è molto particolare, perché non si ricorda a memoria almeno recente un episodio del genere. Quelli che erano i conti preliminari e che inizialmente dovevano essere pubblicati l'8 novembre sono stati infatti diffusi in emergenza questa mattina prima dell'apertura dei mercati, con un CDA convocato proprio in fretta e furia dall'amministratore delegato Jean-Pierre Mustier. Che tra l'altro è a Abu Dhabi in queste ore, no? Esattamente, era di ritorno da Abu Dhabi. Da quello che si è capito, con fonti che raccontano in questo viaggio in aereo piuttosto rocambolesco, appunto, in cui si comunica, praticamente si diffondeva la voce di una pubblicazione del tutto involuta, e quindi davvero sarebbe casuale, sul sito e tramite mail ad alcuni investitori ed analisti, di due colonne relative appunto ai conti del terzo trimestre, quindi dati incompleti che sarebbero state associate a dati invece contabili storici riclassificati, quindi vecchi conti della banca. Bene, questa anomalia, questa svista però avrebbe costretto comunque l'intera struttura della banca a comunicare in emergenza, ma comunque a comunicarla subito per evitare possibili appunto arbitraggi o comunque operazioni ovviamente non lecite, e da qui appunto la fretta e la modalità abbastanza inusuale con cui sono stati comunicati questi conti, che diciamolo mette in evidenza sicuramente una buona spinta che prosegue sul fronte della riduzione delle rettifiche su crediti, che ha fatto incrementare il margine operativo netto, che ha toccato gli 1,23 miliardi, quindi più 34%. Quindi i dati sono buoni, esatto. Insomma, in poche parole. Sono usciti sono fuori buoni, tempo, sono ma sono buoni. Un po' in calo, c'è un margine operativo lordo che è lievemente in discesa, ma sicuramente il margine operativo mostra un importante rialzo, che è frutto della politica dei forti accantonamenti di Jean-Pierre Mustier. Grazie Luca Davi per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a voi. L'erba è alta, ormai lo so. E dovrei potare il melo. Ma scusami, il bonus per il rifacimento dei giardini e delle zone verdi c'è? Eppure quello è annunciato nel disegno di legge di bilancio. Tu hai altri desideri su questo disegno di legge di bilancio? Vabbè, quello però è divertente. Allora, perché abbiamo cominciato con il grande Lucio Battisti? Perché la canzone si intitola Vendo casa, e poiché siamo qua per parlare appunto di vendere, acquistare, affittare casa con Paola Dezza del Sole 24 Ore. Buongiorno Paola, benvenuta a Grazie. Due di Denari. Buongiorno a tutti. E la nostra, Alessandro, esatto, la penna per eccellenza di questo settore. L'avete no, letta per il anche sole. Stamane poi esatto. Sui PIR, che appunto aspettiamo nel disegno di legge di bilancio, esatto. Estesi al mercato immobiliare. E Alessandro Ghisolfi, che è responsabile del centro studi di casa.it. Abitare Co. Oh, santa pazienza, ho sbagliato, chiedo scusa Alessandro. Allora, buongiorno Deborah, a tutti. Da dove vogliamo cominciare? Cominciamo da quello che scrive Paola su Casa 2017, l'instant book che esce domani con il Sole 24 Ore, perché c'è un concetto importante attorno a cui ruotano tutti i ragionamenti che riguardano in questo momento il settore immobiliare. La parola ripresa è un po' abusata se associata al real estate italiano. Abbiamo visto dei momenti molto duri per questo settore in passato, che naturalmente è crollato a causa anche del razionamento del credito da parte del settore bancario e finanziario. Poi una bella ripresa, un bel recupero. Adesso tu dici sulla guida, da giugno abbiamo rivisto di nuovo un momento di pausa e di riflessione delle compravendite in Italia. Cosa sta succedendo? Allora, dopo diciamo una serie di trimestri in crescita per quanto riguarda le compravendite residenziali, c'è un fisiologico stop, nel senso si continua a comprare casa ma in misura molto minore. Infatti nel periodo di aprile-giugno 2017 l'aumento delle compravendite è stato solo del 3,8%, e noi eravamo abituati ad aumenti del 10% anche a due cifre nei trimestri precedenti. Questo vuol dire che il mercato si prende una pausa, non vuol dire che torniamo indietro al vecchio periodo di crisi. La crisi ormai è alle spalle, però anche la parola ripresa ormai l'abbiamo usata troppo, nel senso ne abbiamo abusato, per cui il mercato è entrato in una fase di recupero, una fase positiva che riguarda solo le compravendite e non ancora i prezzi, cioè i prezzi si sono avviati a una stabilità, che è un dato comunque positivo, ma non stanno risalendo, quindi il valore delle case da questo punto di vista non si è ripreso. E siamo entrati in una fase tutto sommato positiva. Questo significa che per i prossimi mesi ci sarà da sperare in un recupero dei prezzi, perché è quello poi che fa innescare veramente il recupero del mercato definitivo. Certo. E sono, tra l'altro, poi i prezzi delle compravendite sono importanti, perché da lì si legano anche ovviamente le fiscalità applicate a queste operazioni. Guarda, già qualcuno ci sta scrivendo, ecco. Vuole capire come potrebbe regolarsi nel caso in cui il proprietario abbia pendenze con il fisco, e allora poi che succede? Ma insomma, perché sempre queste subentra compravendite complicate? No? Non esiste un mercato chiaro, trasparente. Uno va a comprare una casa che è, come dire, a posto, invece c'è sempre qualche pendenza strana. Detto questo, è un mercato molto particolare. Che il mercato in Italia non è poi così trasparente. Veramente, Paola, questo è un tema. Purtroppo sì. Se facciamo l'esempio dell'acquisto di una casa, io non ho tutti i dati a disposizione sulla casa che voglio comprare. Negli Stati Uniti basta basta collegarsi ad alcuni siti e io ho lo storico di quell'abitazione, quindi tutti i prezzi ai quali è stata acquistata e venduta in passato, ho tutte le informazioni per avere veramente un quadro molto chiaro. Ma se noi oggi facciamo, poi chiaramente lo abbiamo ricordato anche prima, domani questo sarà il tema che affronteremo con un notaio, tutto l'ABC della compravendita, dell'erogito, dei preliminari e quant'altro, però se io mi affido ad un notaio per una consulenza preventiva, in realtà lui può sicuramente ottenere maggiori informazioni rispetto a me o no? Quello sì, sicuramente. Infatti è molto importante appoggiarsi ai professionisti più preparati, quelli di cui fidarsi. Le famose visure catastali non sono sufficienti ad avere una visione di totale trasparenza dell'immobile. Ma sul discorso prezzi meno, nel senso io non ho tutto lo storico, tutta la vita di quell'immobile, passaggi che ha fatto, eccetera. Questo sarebbe veramente un aiuto per la trasparenza del mercato. Anche perché nei rogiti magari delle compravendite passate non sempre i prezzi indicati sono esattamente quelli... Infatti. Nello stesso palazzo ci sono due appartamenti simili venduti a prezzi completamente diversi. Vabbè, torniamo un po' alla situazione attuale, Mauro. Sì, allora, intanto scusami Deborah, dico a tutti quelli che ci stanno scrivendo fanno domande di tipo fiscale. Domani vi accontentiamo. Domani è il giorno del fisco. Oggi parliamo di mercato, parliamo di come sta andando il mercato, se si sta riprendendo, non si sta riprendendo. Domani esaudiremo tutte le vostre curiosità sulla parte fiscale degli immobili. Poi naturalmente quelle che non riusciremo a esaudire in diretta, vi rimandiamo naturalmente alla guida che trovate in edicola domani con il Sole 24 Ore. Io volevo chiedere a Ghisolfi, ma insomma il momento allora è buono, è migliore per vendere, per comprare? Ci sono come dire ambiti, territori dove può essere adesso il momento adatto per comprare o vendere? Allora, Il momento è sicuramente buono in entrambi i casi, se vogliamo, nel senso che se vogliamo fare un raffronto magari col mercato anche borsistico, sta diventando meno buono per comprare, nel senso che comunque il mercato, come diceva Paola, negli ultimi 2 anni e mezzo in Italia le compravendite sono cresciute tanto, ci vorrà ancora almeno un annetto e mezzo prima di vedere una crescita anche dei valori, però siamo abbastanza, in alcune città, soprattutto Milano, siamo già in una fase di riscaldamento dei motori piuttosto accesa. È vero che il nostro mercato è un mercato veramente molto frammentato, nel senso che la situazione di Milano è molto bella, nel senso, come mercato, cioè c'è domanda vivace, c'è offerta, le compravendite crescono a due cifre, però se usciamo da una realtà come quella di una grande metropoli come Milano, ci ritroviamo invece in un mercato ancora molto... A macchia di leopardo, faticoso, basta dare questa definizione. Esatto, sì, una definizione che non mi piace tantissimo, però è la verità, cioè appena vai nei comuni con 20.000, 25.000 abitanti, ma anche del nord, cioè del Piemonte, della Lombardia, il mercato è tuttora ancora molto ingessato. Esistono delle statistiche recenti sui tempi medi di compravendita, Ghisolfi? Ci sono delle differenze significative rispetto ai momenti d'oro del recente passato? Allora, anche qui si stanno riducendo le tempistiche, perché si è visto che siamo finalmente scesi anche in media sotto gli 8 mesi per comprare casa, e anche qui torno di nuovo a dire che se sei a Milano addirittura bastano anche meno di 4 mesi per riuscire a vendere casa, se sei invece in un piccolo comune dell'Interland i mesi invece sono più di 9, quindi c'è una tendenza generale alla riduzione delle tempistiche ed è sicuramente un dato positivo. Questo che lei diceva mi fa notare una cosa: c'è stata tutta una fase in cui si scappava dai grandi centri perché si diceva ma è troppo costoso l'immobile, e poi naturalmente c'è anche il costo della vita da considerare, e quindi si cercava la casa nell'Interland, nei centri magari a ridosso dei grandi centri. Sì. Mi sembra di cogliere invece un'inversione rispetto a questa tendenza. È così? Sì, è così. C'è un'inversione, la gente, diciamo, più o meno, dato appunto il periodo forte di crisi che c'è stato nelle grandi città sui prezzi, riguarda il mercato immobiliare anche proprio urbano delle grandi metropoli, cercando appunto di rientrare. E poi c'è tutto un discorso legato magari a ai cattivi collegamenti che non si sono sviluppati negli anni, per cui io ricordo a inizio anni 90 che per esempio sempre dalle grandi città, da Milano, da Torino, da Roma, c'era un po' la fuga per cercare il verde. Poi dopodiché uno comprava, doveva andare a lavorare però in città, ci metteva un'ora e mezza per arrivarci e si pentiva della scelta. Mm-hmm. Detto questo, certo, prima ragionavamo, Paola, sul tema dei tempi medi di compravendita. È chiaro che qua parliamo appunto sempre delle medie di Trilussa. Certo. Poi se uno trova la casa dei suoi sogni, magari un acquisto lo chiude in un mese e non fa neanche tanti problemi di prezzo. Se uno invece va a caccia di un investimento che abbia anche un connotato speculativo, vuole fare del secolo, è chiaro che magari la compravendita richiede dei tempi più lunghi, ma in base anche a tutti gli osservatori che ti capita e ti tocca studiare per riempire le pagine del Sole 24 Ore, l'ultimo è quello importante dell'Agenzia delle Entrate, poi c'è quello importante di Nomisma, c'è anche Scenari Immobiliari che pubblica appunto regolarmente delle statistiche importanti. Ecco, oltre a Milano, della quale abbiamo parlato fino a questo momento, quali sono le altre città dove ci sono dei trend interessanti, sia in termini di discese forte o di stabilità di quotazioni, di ripresa degli aumenti? Una città sicuramente molto interessante è Torino, una città sulla quale stanno puntando anche gli investitori istituzionali. Ci sono state delle transazioni importanti anche nel settore alberghi. È una città in forte ripresa, una città che piace molto. E anche l'apertura di alberghi budget hotel, stanno guardando a Torino, stanno guardando anche a Bologna, Genova, anche città che non sono troppo lontane da Milano, perché per esempio Genova piuttosto che Torino e Brescia sono città alle quali Milano si potrebbe rivolgere, nel senso andare ad abitare a Torino e venire a lavorare a Milano non è poi così è complicato con l'alta velocità. Sì. Genova è mal collegata, ma si sta studiando anche lì diciamo di migliorare le infrastrutture e i collegamenti, per cui Milano, che offre agli investitori istituzionali un bacino che non si può espandere più di tanto, poi con anni in cui lo sviluppo è stato completamente fermo, si fa fatica a trovare l'immobile, potrebbe appoggiarsi sulle altre città per creare diciamo un centro maggiore, un'area più grande di investimento da offrire all'estero. Hai visto che suggerimenti, prospettive di sviluppo che dà Paola, addirittura, no? Sì, in ambito regionale e anche sovraregionale, però adesso dobbiamo sentire come vanno i mercati, esatto. Come vanno i mercati, come vanno le banche soprattutto. Però invito gli ascoltatori che hanno curiosità, domande da porci, a telefonare, a scrivere SMS, WhatsApp ai numeri abituali 800240024 per chiamare in diretta, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ma adesso, Debora, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta di denari. Lei è fortunato. Ne è rimasto uno doppio, luminoso, confortevole e spaziosissimo. Bello, l'ingresso è bello. Ingresso, soggiorno pranzo, letto, cucinotto e water closet, è tutto qui. Guardi qua, angolo cottura, angolo intimo, angolo doccia con relativo spogliatoio. E la finestra non c'è. Sorpassata. Incredibile monolocale di Milano di Renato Pozzetto. Esprimeva, diciamo, bene, esatto, anche la caccia alle metrature di quegli anni in cui appunto è stato girato il film. E c'era questa tecnica di far entrare tutto nel minore spazio possibile, mm-hmm, anche per spendere qualcosa meno. Magari adesso invece diventa più interessante, ma lo chiedo ai nostri ospiti, a Paola Dezza e Alessandro Ghisolfi. Diventa interessante la metratura ridotta come investimento, come un possibile, una seconda casa, non necessariamente in una località turistica, mm-hmm, ma anche in un centro importante per... vogliamo essere galanti, diamo la parola a Paola Dezza. Mi hanno sempre detto, Paola, che il bilocale a Milano è come un assegno circolare, è sempre così? Ma direi di sì, nel senso che con lo sviluppo degli affitti brevi, che effettivamente ha vissuto quasi un boom negli ultimi anni, è diventato molto più interessante l'acquisto per investimento, perché mettere a reddito un appartamento con questi termini significa portare a casa un reddito al di là delle tasse, al di là della tassa Airbnb, eccetera, più alto rispetto a un affitto classico 4 anni più 4. Per cui c'è stato un grande risveglio, in questo caso soprattutto nelle città turistiche, città d'arte, anche le città universitarie che hanno due bacini, d'utenza, i turisti e appunto gli studenti. Bisogna stare attenti alla stagionalità in questi casi, perché chiaramente Roma ha una stagionalità di 12 mesi, quindi io a Roma affitto sempre, già a Milano ne ha 8, quindi nel momento in cui valuto l'investimento, vedere anche qual è la stagionalità, certo, della città. Tra le città più vivaci di cui parlavamo prima, però Roma non l'hai messa. Che stagione vive Roma a proposito di stagionalità? Roma, allora, dal punto di vista residenziale non va benissimo, non va come Milano, le compravendite ci sono ma non sono così elevate. Sta vivendo una fase difficile sul fronte degli investimenti internazionali, perché fanno fatica ad arrivare fino a Roma, si fermano a Milano oppure cercano nelle high street, quindi le città dello shopping, a Venezia, a Firenze, però Roma sta vivendo un momento direi difficile sotto il profilo immobiliare. E infatti ci scrive un ascoltatore, dice: io da 2 anni cerco di vendere un appartamento in località di mare vicino Roma, ma qui la fiducia non è tornata. Guarda Deborah, c'è Angela che scrive: innanzitutto Deborah è un mito, assidua ascoltatrice dal 2004, e fa una domanda particolare: ma per acquistare una casa nelle aste fallimentari è una cosa di cui fidarsi o non fidarsi? Ghisolfi. Beh, il mercato è diventato un pochino più trasparente negli ultimi anni. Sì, è diventato un po' più trasparente. Il problema secondo me fondamentale sono le tempistiche, che non sai mai esattamente quanto tempo ci impiegherai per ottenere la proprietà definitiva. Però adesso si possono vedere le case, anche c'è il custode, no, dell'operazione, che ti consente di visionare l'immobile, una circostanza che prima non era possibile, ad esempio, una delle grandi novità degli ultimi anni. Sì, sì, no, è un'opportunità sicuramente che c'è, perché poi ci sono un sacco di immobili, di appartamenti che stanno finendo sulle aste fallimentari, qui si dovrebbe aprire tutto il discorso. Sono gli esiti della crisi, purtroppo. Eh sì, sono gli esiti della crisi, e gli esiti anche, mi andrebbe di dire, del fatto che a volte sono stati finanziati acquisti un po' così alla leggera. Esatto. Il 100% del mutuo, del valore della casa, insomma, diciamo, l'abbiamo spesso anche qua descritto un po' come 120 anche oltre, esatto. Poi magari vai in banca e non ti dà tutto l'importo necessario per finanziare l'operazione di acquisto della casa, e qua ci si lamenta anche per questo, perché la banca non aiuta, non siamo mai contenti, però insomma noi invece invitiamo sempre alla cautela rispetto a questo, Paola. E poi i prezzi in asta non sono più interessanti come lo erano 15-20 anni fa, si è allineato al mercato, diciamo, anche a quello delle aste. Ci sono delle agenzie che si stanno specializzando in questo segmento, ne ho notate tanto a Milano. Sì, è vero. Vero? Infatti. Vabbè, detto questo, ci faremo una puntata apposita. Rimaniamo sui prezzi che abbiamo nel nostro paese. Abbiamo qualche ascoltatore? Sì, abbiamo Carlo da Milano. Buongiorno Carlo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, ci dica. Ho visto che state accennando all'argomento che mi interessava, e io infatti volevo chiedere riguardo alla seconda casa. Seconda casa non in abitazione, ma seconda casa turistica, che so io in Liguria e via dicendo. Sì. Ho sentito che l'accanimento fiscale, tasse varie, ha fatto desistere, quindi c'è un mercato che si è abbassato nel prezzo. Volevo una conferma o meno. Grazie Carlo. Io credo che la Liguria invece goda sempre di ottima salute. Chi vuole rispondermi? Alessandro Ghisolfi. Sì, è vero. Allora, sono vere entrambe le cose. Da una parte, sì, il mercato della seconda casa ha ricevuto delle botte forti, soprattutto dal punto di vista fiscale, per cui c'era stato proprio un rallentamento molto forte delle compravendite. Nel frattempo si era costruito, inizio anni 2000, per cui l'offerta è cresciuta, non si vendevano le case, e quindi in automatico i prezzi hanno iniziato a scendere. Però in verità alcune regioni come la Liguria, la Toscana, ma anche la Puglia, piuttosto che la Sicilia, hanno tutto sommato alla fine tenuto abbastanza bene. Poi ovviamente bisognerebbe andare a vedere località di località. Oggi il mercato della seconda casa, secondo me, comunque sta ritornando in auge, è in ripresa anche il discorso, e mi leggo a quello degli affitti brevi, perché non si fa più come una volta: vado in vacanza nello stesso posto per 3 mesi di seguito, ma invece magari faccio 15 giorni al mare, ne faccio 15 in montagna, oppure faccio il weekend lungo, e quindi basta andare a vedere su certi portali il numero di... Puoi anche citarlo, tanto sì, c'è il leader di mercato, direi che... Esatto, appunto, basta andare su Airbnb per vedere che il quantitativo è enorme, ma soprattutto anche di persone che non avevano neanche in testa di affittare la loro seconda casa, cioè che erano abituate a lasciarla chiusa per tutto l'inverno, ma in verità c'è anche una domanda invernale, per esempio dall'estero, degli stranieri che amano venire. Io parlo della Liguria perché la conosco bene e ci sono un sacco di tedeschi, di inglesi che d'inverno vengono in Liguria, diciamo, a svernare, tra virgolette, sono sempre alla ricerca di appartamenti in affitto, quindi perché lasciarli chiusi? Abbiamo parlato a lungo qui a Due di Denari di questo, poi degli obblighi di tassazione e della famosa tassa sugli affitti brevi, certo, che qualche volta appunto si chiama anche tassa Airbnb per capirsi, certo, ne abbiamo fatto già diverse puntate, oramai ha trovato, diciamo, una sua fisionomia stabile. Sì. Forse ci fermiamo. Sì, ci fermiamo. Leggo nel frattempo solamente una domanda su WhatsApp che arriva da Paola da Roma, che chiede chiarimenti su questo. Dice: ci sono delle pubblicità di agenzie che offrono case in vendita in zone turistiche con la possibilità di lasciare la casa stessa a disposizione dell'agenzia per essere affittata. E questa agenzia, l'agenzia garantisce una rendita del 10% annuo. Sembra interessante. Quindi Paola è stuzzicata, ma a quali problemi potrei andare incontro? Mi suggerite di farmi seguire un professionista? Questo sempre, Paola, direi assolutamente di far fare un controllo, di farsi fare una consulenza e magari una ricerca di informazioni affiancata da un consulente. Però è un mercato che c'è, Paolo, queste agenzie che mettono a disposizione in vendita case è un mercato e poi vogliono che c'è, gestire loro? Io ne starei attenta, perché il 10% annuo mi sembra veramente una cifra elevatissima, quindi già questo mi farebbe sospettire. Però è un mercato che esiste, per cui il proprietario utilizza la casa per un certo periodo, poi la lascia in gestione, la casa viene affittata e gli viene riconosciuto una percentuale, diciamo, del rendimento. Quindi attenzione alla percentuale. Sì, io farei proprio una puntualizzazione sul verbo garantisce un rendimento, ma forse promette. Esatto, è un concetto che è morto da qualche anno, forse non ve ne siete accorti, ma noi ve lo ricordiamo. E allora intanto traffico. Due di Denari. Ma che idea fenomenale, andare ad abitare in quel casale. In un paesino tipico rurale, con solo un bar e la chiesa parrocchiale. E questa? Ti ho fatto uno scherzo, Deborah, perché questa è in itinere. Ecco perché sei uscito dallo studio prima. Devo andare a dire una cosa ai ragazzi. Sì, eccolo. Sì, ho chiesto, ho corrotto nell'ordine Giulia Lauricella, Marco Lombardo e persino Peter Bescapelli, incorruttibile Peter Bescapelli. Con che cosa, tra l'altro? Non posso rivelarlo. Hai regalato un mutuo loro. Non posso rivelarlo e ho invitato loro così a cercare e usare questo brano dei Chapter 11 che appunto parla di gente che si trasferisce nell'Interland e poi però... 2 ore al giorno in tangenziale. Esatto, infatti, quindi meglio stare un po' più vicine al centro, magari in un monolocale modello Renato Pozzetto, però ecco, un po' più comodo. Sono scelte di vita che hanno sicuramente animato molte famiglie italiane negli ultimi anni. Centro, periferia, nuovo usato, anche questo è un altro bel tema di scelta. Magari Alessandro Ghisolfi di Abitare Co ci dice qualcosa a questo proposito, perché anche Milano comunque sta riprendendo a crescere, a riqualificarsi dal punto di vista edilizio, però non siamo tutti a Milano. E altrove? Ahimè, no. Infatti Milano sì, è molto particolare e ha un mercato del nuovo che mi verrebbe da dire che va meglio quasi di quello dell'usato, nel senso che c'è una domanda fortissima. Do un dato anche riagganciandomi al discorso dell'investimento, i cantieri di Abitare Co registrano almeno il 15%, il 20% di chi compra per affittare, cioè non va ad abitare. Ah. però nelle nuove costruzioni, cioè nuove residenze. Altrove è un mercato che fa un pochino più di fatica, ma più che altro per, dal punto di vista, secondo me, dell'offerta, nel senso che si sta rimuovendo, per esempio parlavamo di Torino prima, ed effettivamente sì, è molto interessante. Ricordiamo che poi Torino ha dei prezzi delle abitazioni che sono praticamente la metà di quelli di Milano, anche nel centro storico. Al sud, secondo me, la città che fa più fatica dal punto di vista delle nuove costruzioni è Napoli, ma perché ci sono un po' troppe difficoltà a livello di ottenimento di permessi, eccetera, perché sennò tanti imprenditori sarebbero pronti a partire. Sì, sì. Possiamo sentire magari Salvatore da Milano che ci pone una domanda su un ambito che non ha ancora toccato. Buongiorno Salvatore. Buongiorno a tutti. Allora, la mia domanda era, ho sentito parlare di residenziali, invece io ho comprato un ufficio, quindi sulla parte, come dire, professionale, ho comprato un ufficio una decina d'anni fa e adesso volevo capire, rispetto a quello che era stato il momento in cui lo avevo acquistato, qual è la situazione oggi, com'è il mercato relativamente agli uffici. Grazie Salvatore, non so se vogliamo anche associare la domanda di Gabriele che ci chiama da Vicenza. Sì, sul tema delle pertinenze, che pure è importante. Buongiorno Gabriele, è in linea? Eccomi qua, sono io, sì. Cosa voleva sapere? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io ho un garage a Vicenza. Sì. E è un garage abbastanza grande, ci stanno due macchine affiancate. Ecco, io insomma non lo utilizzo, volevo darlo in affitto. Ecco, volevo chiedere un po' un'indicazione, se è possibile, di un prezzo e capire un po'. Mercati trasversali, li possiamo definire. Gabriele e Salvatore ci pongono due risvolti che non abbiamo ancora affrontato. L'uno, gli uffici, il mercato immobiliare per gli uffici, l'altro per le pertinenze. Chi vuole rispondere? Paola Dezza, direi. Cominciamo allora, con Paola Dezza. Il discorso delle pertinenze è interessante nel momento in cui appunto uno acquista casa, ha un box o un posto auto di proprietà collegato alla casa e va a rivendere poi in un futuro l'appartamento. Mm-hmm. Chiaramente il valore dell'appartamento, se ci troviamo in una città affollata per esempio come Milano, è sicuramente interessante. È un mercato, quello dei box, che è stato molto interessante negli anni passati. Si comprava proprio come investimento per poi metterlo a reddito, perché il box non ha spese sostanzialmente. Mm-hmm. Quindi, però adesso è un mercato stabile, a parte direi la questione della Tari che abbiamo ricordato un paio di giorni fa. Già abbiamo ricordato e ci torneremo, vedrai che ci torneremo, Deborah. Va bene. E anche come gestione è una gestione facile, però è un mercato adesso stabile. Più interessante è il mercato dei piccoli uffici. Vero, Ghisolfi? Ti piace il mercato dei piccoli uffici? Piccoli o grandi uffici? È bella questa staffetta che avete fatto. Bella, quindi piccoli uffici, però sono partito tardi. Piccoli uffici, sì. Come sono messi? Beh, un po' meglio dei grandi, soprattutto se parliamo appunto della quella che era l'ex appartamento che ha cambiato destinazione d'uso è diventato ufficio, quindi all'interno di edifici residenziali, se sono piani bassi, più che ufficio magari può essere anche il classico studio del dentista piuttosto che del commercialista o del notaio. Parliamo di tagli che quindi vanno da un minimo di 70 metri quadrati a un massimo di 130. Questo è un tipo, una tipologia che ha vissuto sinceramente un momento tragico di compravendite, causa crisi fondamentalmente, e adesso invece sta cominciando a riprendersi. Abbiamo toccato tantissimi aspetti, tanti non riusciamo a toccarne, ma abbiamo dato così un'idea di come si muove ogni ambito legato alla questione della compravendita di un immobile. Per tutto il resto, domani c'è in edicola Casa 2017, le nuove regole per comprare, vendere e affittare con il Sole 24 ore. Non riusciamo a far intervenire Tina da Milano. No? Sintetizzo io la domanda perché è pure interessante. Ha una casa d'epoca, dice, è bellissima, sul Naviglio Grande, ma il suggerimento che ci chiede è: cosa faccio? Voglio venderla, mi affido ad un'agenzia o faccio da sola? Come si fa a risolvere questo dilemma? Che suggerimenti possiamo dare, Paola? Io farei un primo tentativo da sola con tutti i portali che comunque ci sono a disposizione e poi mi affiderei a un'agenzia senza darla però in esclusiva. Certo, se però magari è un immobile di pregio particolare forse è meglio un pochino farsi aiutare, dipende dalla tipologia di immobile. Gisolfi non è d'accordissimo con questa indicazione. No, non so, dice l'esclusione. Per il mio passato. Però sì, fare da solo secondo me c'è un tasso di rischio abbastanza è vero, alto. Però l'agenzia deve seguirti bene. Però, perché le percentuali esatto. sull'operazione che chiede non sono poca cosa rispetto ai valori degli immobili, per cui devi pretendere anche una consulenza adeguata, non che faccia solo un'intermediazione, una ricerca. Soprattutto se l'immobile è un immobile di pregio, chiedono delle commissioni elevate. Ecco, quindi Tina, magari stia attenta, ci rifletta ancora su un pochino, cerchi una buona agenzia molto professionale, si faccia suggerire anche dei buoni nomi in questo Cara senso. Cara Deborah, il tempo vola quando stiamo insieme, esatto. Però domani torniamo ancora. Quando ci ancora. Si diverte non ci si annoia mai e non c'è non ci si no il tempo vola com'è che sì, volevo sì. dire un proverbio il tempo al volo vola ma non me lo sono ricordato esatto. Ma guarda non ti preoccupare perché torniamo domani e parliamo ancora di casa. Buona giornata a tutti.